E allora, ancora gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo era il pezzo che dedicavamo a Eddie, a cui rinnoviamo il saluto. E noi intanto siamo, come vi avevo annunciato, al telefono con Geraldine, una compagna che chiamiamo da Milano, del fronte difesa del popolo Mapuche. E come vi dicevo, in particolare l'appuntamento di oggi sarà, già ce lo siamo detto, il primo di una serie di condivisioni che faremo insieme a loro, per parlare della condizione del popolo Mapuche e per approfondire anche che cos'è questo fronte, anche questa rete, perché poi non è solo in Italia. In particolare oggi però ti chiamo perché cominciamo invece al contrario, parlando un po' della cronaca degli ultimi tempi, in particolare degli ultimi giorni. Intanto tu raccontaci così brevemente le condizioni del popolo Mapuche, le loro lotte e poi appunto il livello grande di repressione a cui siamo arrivati in particolare in questi ultimi mesi. Ok, va bene. Ciao a tutti. Sì, raccontare che il popolo Mapuche è un popolo originario, per chi non lo sa, che si trova nel Sud America, che è attualmente il Cile e l'Argentina. Il popolo Mapuche porta avanti una lotta, una resistenza di oltre 500 anni, che più che altro le rivendicazioni più importanti sono la restituzione delle terre che sono state occupate dallo Stato cileno fino al giorno di oggi, e il riconoscimento come popolo originario, come popolo autonomo, scusa, già che loro sono un popolo che hanno una cultura propria, una spiritualità propria, una lingua propria che non è stata mai riconosciuta dallo Stato cileno. La resistenza, la lotta più importante che portano avanti è la difesa per il territorio. La difesa per il territorio non solo come terra materiale, anche perché il popolo Mapuche, che vuol dire gente della terra, è molto molto legato a questa terra, perché da loro traspassa una spiritualità molto molto profonda, molto molto legata alle sue credenze, alla sua cultura. Quindi diciamo che l'importanza della terra non è solo la difesa del territorio materiale, anche la difesa del territorio spirituale. E oggi attualmente la difesa di questo territorio materiale è contro tutte le multinazionali che stanno invadendo e che stanno devastando le loro terre. Il popolo Mapuche oggi ha una quantità enorme di multinazionali, imprese forestali, imprese delle energie, pesca e mineria. Questa è una lotta che viene avalata e supportata dallo Stato cileno, perché dove ci sono gli interessi, lo Stato cileno non ha mai guardato in passato il rispetto per il popolo Mapuche, e figuriamoci adesso che ci sono in mezzo tutti questi interessi di soldi e di potere. Certo, non a caso poi questo, tra l'altro, poi ricordiamo che la lotta del popolo Mapuche è la lotta in difesa di risorse che poi sono comuni, la difesa dell'acqua, la difesa della terra, sono cose che loro hanno perché appartengono alla loro cultura ancestrale. A noi che siamo ormai un po' più contaminati è un discorso che dobbiamo un po' rifare da capo, non so come dire, quindi loro si accollano anche una lotta comune, no? Indirettamente. Quello che accade nel territorio Mapuche poi è un po' la fotocopia anche di quello che è successo in altri territori, dove poi le persone sono state, non so, penso alla Colombia, dove casomai non c'è stata una non si è riusciti a fare una resistenza così forte, laddove invece si trovano dei fronti di resistenza, non lo so, pensavo ai Mapuche che scrivevano i comunicati agli indiani del Dakota, penso a quante volte poi in un attimo questi popoli riescono a fare rete molto più spesso di quanto riusciamo a farla noi, no? È una cosa abbastanza impressionante. E chiaramente a tante rivendicazioni e a tanta fermezza di questo popolo poi corrisponde tanta repressione. L'ultimo atto è stato appunto quello, durante una manifestazione, di un compagno che è stato messo a pancia sotto, sdraiato per terra, e nonostante fosse assolutamente inerme gli è stato sparato sulla schiena da breve distanza. Questo compagno adesso sta male, è solo l'ultimo degli avvenimenti, forse quello che però nella sua crudezza rappresenta quella che è stata la recrudescenza della repressione, giusto? Sì, giusto così. Il caso di questo ragazzo Mapuche di 17 anni, successo questa domenica scorsa in un territorio Mapuche della comunità di Cujipuji, sempre al sud del Cile. Un ragazzo che viene fuori di casa quando sente suo fratello urlare, dicono che i carabinieri stavano facendo solamente un controllo di identificazione. E suo fratello è venuto fuori quando l'ho sentito urlare, come hai detto te, lo hanno messo pancia in giù con una scopetta alle spalle e è scappato questo colpo che è stato letale, perché oggi lui si trova in fine di vita e quindi loro, come sempre, la scusa che è stato un incidente, una cosa accidentale. E noi siamo stufi di sempre delle solite scuse che non volevano farlo, che gli è scappato il tiro, il colpo, scusate, e quindi questo ragazzo oggi, ieri sera l'hanno fatto il quarto intervento, dove sono stati estratti 260, noi diciamo in spagnolo perdigoni, che ancora non riesco a capire, ma sono come pallini di gomma. Sono come pallini, come qua ci fanno le... Sì, esatto, sono dei pallini di piombo. Esatto, è come esatto, i proiettili a pallini, solo che la differenza è che lì i pallini sono di gomma, anche se poi fanno la stessa, se sparati a quella distanza poi cambia poco. E quindi questo diciamo è l'ultimo episodio di repressione, di una serie di repressione che si sta sempre incrementando di più da parte dello Stato cileno contro il popolo Mapuche, contro il Mapuche che lotta e difende le sue terre e il suo popolo, perché abbiamo anche nel 2016 tanti casi di donne Mapuche che sono state minacciate, torturate per difendere le proprie comunità e la propria gente. Quindi il livello di repressione è brutale in Cile, è grandissima. Noi siamo stanchi, siamo addolorati, anche oggi una compagna Mapuche, 60 anni, per quarta volta in 6 mesi le è stata revocata gli arresti domiciliari e oggi deve tornare di nuovo in carcere a 60 anni applicandole la legge antiterrorista che ha lasciato il governo di Pinochet, a 60 anni in condizioni di salute che lei sta morendo. Quindi la repressione questo anno diciamo che purtroppo è stata molto forte contro le donne Mapuche. Macarena Valdés, compagna Mapuche, 32 anni, assassinata nel mese d'agosto dei sicari della multinazionale austriaca RP Global per difendere il territorio contro una centrale idroelettrica, l'hanno trovato morto. Loro dicono che non c'entrava niente, noi sappiamo benissimo cosa è successo, tutti lo sappiamo, perché lei ha dato la vita per difendere la sua terra, difendere la sua gente. So anche che un'altra compagna che è stata detenuta, sì, che è stata costretta a partorire in una situazione veramente, infatti, allucinante. Lo voleva dire anche questo, mese novembre, Lorenza Cayugan, prigioniera politica Mapuche, di 30 anni, portata in ospedale, costretta a partorire incatenate alle mani e ai piedi. Quindi diciamo siamo in un Cile dove la dittatura non è mai finita, siamo in un Cile dove qua purtroppo già dentro del territorio nazionale le notizie non fanno vedere cosa succede nel territorio di Mapuche, qua fuori nessuno penso che può capire che cosa sta facendo il governo cileno, lo Stato cileno contro chi lotta, contro chi rivendica i suoi diritti, che è una parola che non mi piace usare molto, perché i diritti anche di giustizia, un'altra parola che noi non usiamo, lo Stato cileno non sa neanche cosa vuol dire. Senti, la domanda che ti voglio fare è che cosa si può fare da qui, come sostenere, come poter muovere qualcosa, immagino anche attraverso voi, qual è qualcosa di utile che si può fare qua, oltre immagino poi a parlare di quello che sta accadendo, perché poi più informazione si fa, più le persone conoscono queste storie, ma oltre a questo come si può effettivamente dare sostegno, appoggio? Noi abbiamo creato qualche anno fa questa rete in difesa del popolo Mapuche. Cerchiamo noi attraverso la diffusione, attraverso l'informazione, dare sostegno politico alle diverse comunità Mapuche. Abbiamo una nostra pagina Facebook che si chiama Rete Internazionale in difesa del popolo Mapuche, in spagnolo, scusate. Internazionale perché adesso abbiamo anche i compagni a Hamburgo e a Oslo che stanno anche creando iniziative per sostenere il popolo Mapuche, quindi stiamo lavorando tutti insieme. Poi noi come rete Mapuche Milano stiamo girando un po' qua a Milano e in diverse città d'Italia per far conoscere cosa succede in Cile, cosa si sta facendo contro i compagni Mapuche che lottano. Quindi pensiamo quest'anno, che stiamo adesso lavorando il calendario, andremo giù anche a Roma e anche a Napoli per portare questa denuncia. Ok, io appunto, come ci dicevamo prima, appunto i nostri contatti ce li teniamo bene al caldo, perché ci sarà tempo poi di tornare a parlare di questo. Insomma, come sapete, io cerco in questo spazio di mettere le parole e la musica dall'America Latina, perché credo che poi queste lotte debbano essere anche un esempio di riscoprire anche pratiche di lotta, qui che siamo un po' invece in una sorta di tra il caos e l'apatia, ecco, riscoprire che comunque poi ci sono sempre dei denominatori comuni, c'è sempre la repressione che agisce in un modo o nell'altro in maniere molto simili, nonostante poi le situazioni cambino. Laddove c'è resistenza, poi si difendono i diritti, come dici te, o comunque fosse anche non i diritti ma le risorse di tutti, la repressione si scatena. Quindi ecco, saranno appuntamenti che rinnoveremo e avremo modo di parlare anche con più calma e più approfonditamente di questo. Quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa di importante, e poi appunto continueremo a portare avanti i nostri contatti. Sì, sì, io vorrei aggiungere una cosa molto importante, perché questo è un periodo molto duro per i nostri compagni che sono giù, molto duro per sempre con questa repressione, e volevo approfittare questo momento per mandare un messaggio di qua ai nostri compagni che stanno in questo momento cercando di, come al solito, di andare avanti anche se questa repressione di Stato è così grande, così forte, quindi un messaggio di forza, di Nehuen, come dicono loro in Mapudungun, va a Francisca Lonquinao, che oggi nuovamente deve tornare in carcere, va a Macarena Valdés, che ha lasciato la pelle e la vita per la sua comunità di Tranquil, va a Brandon, che sta lottando tra la vita e la morte, e va a Lorenzo Cayugan, che con la sua piccola Sayen sono ancora lì a aspettare perché la vogliono far tornare in carcere. A tutti loro io parlo a nome della rete in difesa popolo Mapuche di Milano, di Oslo, di Hamburgo. Questo più che altro oggi non è un messaggio di diffusione, è una denuncia. Noi denunciamo pubblicamente l'atrocità che sta facendo lo Stato cileno contro i nostri compagni Mapuche che lottano dignamente e legittimamente per il loro territorio. Va bene, Geraldine, allora io ti abbraccio, ti ringrazio e ci sentiamo prestissimo. Grazie a voi di questo contatto, ringrazio tanto per l'interesse e speriamo che in futuro continui.